Stamattina e oggi pomeriggio, poco prima che ripartissi, è venuto al molo, ma non ci siamo incontrati perché era pieno di gente. Non si riusciva a passare. Che voleva? Non lo so. Parlava di me? Sì. Che diceva? Era pieno di soldi. Hanno detto che ne aveva un pacco così, tutti pezzi da 100. Chissà dove li ha trovati. Oggi non viene nessuno. No, stanotte è la volta buona. Te lo ritrovi lì quando meno te lo aspetti, che bussa i vetri con la bava alla bocca. No, ti dico che non viene più. Oggi, domani, dopodomani, stanotte, mai più. E perché non dovrebbe tornare? È pieno di soldi. Usciamo. È freddo. Piove. Andiamo sulla banchina. Prendiamo dei pezzi di tela per coprirci e ci mettiamo a guardare il temporale. Viene dal mare, deve essere bello. E se lui arriva quando noi non ci siamo? Lo trova sempre il modo alla fine, no? È sempre tornato alla fine, no? Ti si mangia per bene stanotte. Dovremmo comprare un televisore, così per passare il tempo. Io sono sicuro che ti piacerebbe. Io preferisco andare fuori e guardare il fiume. Il fiume puzza. E poi ti fa male respirare quell'aria. Ma io ci sono abituata. La puzza non la sento più. E anche se l'acqua fosse piena di cadaveri che galleggiano, la puzza non la sentirei. Ma lo sai che tanti sono diventati ciechi a forza di andarci? E puoi guardarlo dalla finestra, no? Da qui alla riva saranno sì e no 10 metri. A che ti serve andare fuori? Quest'affare tra poco sprofonda nell'acqua. Se non stiamo attenti ci finiamo dentro al fiume. Dove vai? Lo sai cosa succede, no? Ti si bruciano le retine, capito? Inizi a vedere tutto giallo, come se guardassi attraverso una bottiglia di plastica. Poi ti lacrimano gli occhi e piangi come un neonato per il dolore, perché ti senti un ago che ti entra qui e che ti arriva fino alla spina dorsale. Io lo so che per una come te può anche essere una cosa piacevole, ma il fatto è che non appena sei lì, che inizi a godertela, all'improvviso non senti più niente. Basta, il gioco finisce, diventa tutto nero. Sei cieco. Guarda, la polvere ti va negli occhi, nei polmoni, sotto la pelle, senza che tu ti accorga di niente. In silenzio. Come se fosse la cosa più normale. Qui fuori l'aria è piena di ferro, polvere, e il resto è fumo. Polvere e fumo. Ma dove vuoi andare? Devi rimanere dentro. Ormai è la stessa cosa anche dall'altra parte. È quasi un mese che non viene più. Lo so. Non pensi che forse dovremmo provare ad andare via di qua? No. Potremmo provare ad andare in città. C'è già troppa gente laggiù. E però potremmo provare. No! Ah. Ha cominciato a pulsare adesso tutto insieme. Mi fa male tra le gambe dappertutto. Anche le ossa. È come se fossero pesanti. Come se fossero fatti di sassi. Certi giorni anche camminare è faticoso, da qui a là. Me l'aveva detto che sarebbe successo quando sarei diventata più grande. Io non ce la faccio più a essere un angelo e a volare, vero? Come vuole lui, come dici tu? È per questo che ha smesso di venire. Si è sparsa la voce, è venuto a saperlo. Ti sarai spaventato. Deve essere stato brutto. Sono cose che capitano. Avrai urlato, almeno all'inizio, sperando che qualcuno ti sentisse e ti venisse a salvare. E invece no. Eri solo. capita. Spero che tu abbia pregato prima. I bambini devono pregare sempre, almeno una volta al giorno, prima di andare a dormire. Ma che ci facevi vicino alla riva? Non te l'ha mai detto nessuno che in alcuni punti il fiume è profondo come il mare? Ed è un niente cadere dentro. È l'acqua che ti fa scivolare giù. È come se ti chiamasse. E tu devi averne fatta di strada per arrivare fino a qua. Ma adesso ci penso io a te e mettiamo tutte le cose a posto. Chissà che ora sei morto. Se sei stato fortunato e c'era il sole, se la corrente ti teneva a galla, l'avrei vista anche tu, l'aria di quel colore, arancio, il tramonto su tutte le cose. È bello. Io vado sempre in riva al fiume a quell'ora, quando non c'è mio fratello. Lui vorrebbe che io rimanessi chiusa qui dentro tutto il tempo. Dice che è pericoloso, ma io ci vado lo stesso. Chi c'è? Chi c'è? Sei tu, mi sono spaventata. Che fai? Niente. E quella roba cos'è? È un bambino. Vieni a vedere, è bello. Era in riva al fiume, l'ho visto dalla finestra. Allora sono uscita, ho preso un bastone e l'ho tirato a riva. Guarda, è pieno d'acqua. Deve averne bevuta molta prima di affogare. Dovremmo seppellirlo. Però posso farlo io, se tu sei stanco. Hai ragione, dovremmo seppellirlo. Guarda i suoi vestiti. Viene dalla città. Se sei stanco, posso farlo io. No, ti do una mano. No! Ho detto che lo faccio io! Lo faccio da sola! Che succede? Niente. Che succede? Mi sono spaventata, scusami. Sicura? Sì. Scusami se prima ho urlato. Dove vuoi andare? Lo porto fuori. Troverò una buca dove metterlo. Se continui così, finirai per ammalarti, capito? È questo quello che vuoi, eh? È questo! Io lo dico per te. Perché ti voglio bene. Hai sentito che ho detto? Hai sentito? Tu non lo dici veramente. Non l'hai mai detto veramente. Io lo capisco benissimo quando qualcuno dice che mi vuole bene, che mi ama. Tu non hai nient'altro. Se io non funziono più e lui non torna, tu non sai cosa fare. Vieni, scopami tu se vuoi. Per vedere se è cambiato qualcosa. Dai, anche se non sono più un angelo. Puoi fare come lui, tutto quello che vuoi. Sei un uomo. E gli uomini in fondo sono tutti uguali. Cambia solo quello che pensano di essere, ma alla fine è la stessa cosa per tutti, no? Dai, mi dimentico che sei mio fratello. Anzi, me lo sono già dimenticato. Chiudo gli occhi e me lo dimentico. Così vediamo se ci riesci a dirmelo veramente almeno una volta. Vediamo se ci riesci! Dov'è mia sorella? Lei, nella foto. Dov'è? Non lo so. Dovresti saperlo tu, non è mia sorella. Ma se ne avessi una, starei bene attento a non farmela scappare. Sembra un posto piuttosto pericoloso questo. Che cosa gli hai fatto? Sono qui che aspetto da... almeno 20 minuti, non c'era nessuno quando sono entrato. Mi sono detto, strano che la porta sia aperta, deve essere successo qualcosa. Poi, un passo dopo l'altro, cautamente. Chi sei? Che sei venuto a fare? Secondo te? È tuo il furgone qua fuori? È mio. Mettila giù, quella. Non è il modo più educato per fare domande a una persona. Fa freddo qui dentro. Perché non ci metti qualcosa? Elisa Cruz. È lei? Sì. È tua sorella? Sì. Sei fortunato. Elisa Cruz. Mi hanno parlato molto di lei. Dicono che sia una santa. È vero? Che fai miracoli. Che dopo che sei stato con lei non sei più lo stesso, che respiri meglio, che sorridi per giorni, che vedi come se le cose fossero trasparenti, come se ci passassi attraverso con lo sguardo, è vero? Certo che è vero. Ah. Sì? Deve essere una bella cosa il dono della veggenza, della conoscenza, davvero. Una bella cosa. Sono proprio curioso di conoscerla. Devi pagare. Per cosa? Per tutto. Puoi fare quello che vuoi con lei, ma devi pagare. Quanto? Quanti soldi hai? Quanti ne vuoi? Perché sorridi? Ma vorrei conoscere la ragazza prima, almeno vederla. È possibile, di solito. E poi non ho mai incontrato una santa. Deve essere emozionante. Io dico che ti converrebbe metterci qualcosa lassù. Non credo che smetterà presto di nevicare. Non è neve quella, è cenere. C'è più neve in un deserto che qua fuori. Non posso metterci niente, non so come arrivarci. Le pareti sono lisce e non ci sono alberi, non ci sono scale. Non c'è niente. Elisa. Come hai fatto a trovare questo posto? Lui ha trovato me, in un certo senso. Con una mappa. Ma ho girato tutto il giorno per arrivare in questa zona. Sarei dovuto arrivare molto prima, almeno di 5 ore. Sono molto in ritardo, vero? Vi ho fatto aspettare tanto. Ma è già tanto che non mi sia perso, che non mi abbiano sparato prima. Voglio dire, adesso ci sei tu con una pistola in mano, è divertente. Ma in un certo senso mi aspettavo che qualcuno sbucasse da dietro un angolo e mi sparasse nella schiena, molto prima. L'hai già visto? È mai venuto? Mai! Anche se vivevo da questa parte del fiume fino a qualche anno fa. Dovremmo esserci incontrati qualche volta. Vatti a lavare. Sono pulita. E tu vatti a sedere là. Tu prendi questa e puntagliela contro. Io prima voglio controllare il furgone. Bravo. Fai bene. La prudenza non è mai troppa. Le chiavi. Ma non aprire il vano dietro, per favore. Se proprio vuoi vedere cosa c'è dentro, c'è una finestrella sopra il posto del conducente. Prendi la torcia, sta sotto al sedile. Sei diventata molto bella. Sei cresciuta, ma non sei cambiata più di tanto. La foto, di quanti anni fa è? Non me lo ricordo. E chi te l'ha fatta? C'è ancora il fiume qui fuori. Dopo Sì. voglio fare una passeggiata. Si può? Certo. Da dove vieni? Io? Dall'altra parte della foce. E come... Bene. Bene. Anche se devo essere sincero, oggi mi sono svegliato con una strana sensazione. Sì. È difficile da spiegare. Diciamo che mi sono venute in mente un sacco di cose che avevo dimenticato, così, all'improvviso. Sì, lo so, capita. A volte, quando meno te l'aspetti. Mi era già successo prima. Ma il fatto è che mi è venuta anche, improvvisamente, una grande voglia di tornare da queste parti. Di fare un giro, di vedere come vanno le cose. Un po' di nostalgia, forse. Ho capito. Il furgone è pieno di persone! Ce ne sono almeno una decina! Sono chiuse dentro! Come stanno? Hanno finito l'acqua, ci hai fatto caso? Sono quelli che mi è riuscito di prendere. Ma la maggior parte sono scappati via, come scarafaggi. Ti avvicini con il piede, provi anche solo a toccarli. E via, spariti. Si nascondono dappertutto. Chi sei? Che stai venuto a fare? per prendere anche voi, per portarvi via. Dove sono andati? Non lo so. 10 passi e non li ho visti più. Neanche fossero ombre, spariti. Come se se li fosse presi il vento. Li ha fatti uscire per fargli prendere un po' d'aria. Dice che torneranno. Parlavano in modo strano. Hanno biascicato qualcosa tra i denti e poi sono andati via. Bestemmiavano per la fame. Erano come dei cani. Dei cani con le facce scure. Che facciamo? Hai sentito che ho detto? Ho sentito! Allora... io non mi fido. Dice che è pericoloso rimanere qui, che ne verranno altri dalla città, che sta per succedere qualcosa che non possiamo neanche immaginare. Io non gli credo, non credo a niente di quello che dice. Deve essere una specie di soldato. Sa troppe cose oppure fa finta di saperle. Ma mi ha fatto vedere dei fogli. C'era scritto che... dice che gli hanno dato degli ordini. E che gliel'ha dati? E poi quali ordini, eh? Lui ti conosce. Sa come ti chiami, quanti anni hai, come sei fatta. Forse mi ha già visto. Quando? Io non lo so, non me lo ricordo. Dice di esserci nato qua giù. Hai detto che non l'avevi mai visto. E forse sarà cambiato. Non lo so, non mi sembra. Magari insieme ad altri. O qualcuno gli avrà parlato di me. Cosa ci hanno costruito laggiù? Era buio, non sono riuscito a vedere bene. Lì iniziano gli stabilimenti. Ci sono le reti. Le luci sono saltate. Ma le reti sono piene di buchi. E se cerchi per bene puoi entrare, uscire. Impiccarti con i fili dell'elettricità. Farti bruciare. Puoi fare quello che vuoi. Sì? Sì. Dalla città non si sente tutto quel rumore. Non si sente niente. Sembra quasi che ci sia un animale. Io me l'ho dimenticato di tutto quel rumore. Non c'è nessun animale. Sono le macchine. Lo so. Lo so. Posso scoparmi tua sorella adesso? Allora? Cosa? Me la posso scopare? Ti ho dato abbastanza soldi, no? Ne vuoi ancora? Senti, penso sia arrivato il momento di finirla con questo gioco. Chi sei? Che sei venuto a fare? O vuoi rimanere a guardare, eh? Ti vuoi divertire anche tu? Che dici? Vai a dormire da qualche parte. Domani devi guidare. Io non lo so se dopo stanotte ce la farò a restare sveglio. Dobbiamo fare un lungo viaggio. E chi ti ha detto che noi vogliamo venire con te? Lei. Ma io non ho detto niente. Vai fuori! Puoi andare a dormire nel furgone se vuoi. Ma quando tornano, aprigli la porta, per favore. Mi dispiacerebbe fargli passare tutta la notte fuori. Vai. Non vanno più. Le ultime si sono spente un paio di settimane fa. Vuoi che provi a dare un'occhiata? No, no, non serve, grazie. Ti ho portato questo. Che cos'è? L'ho preso per pochi soldi, me l'hanno quasi regalato. C'è anche l'antenna. Dovrebbe funzionare anche senza, ma... mi hanno spiegato come si fa, non è difficile. Se vuoi, lo proviamo insieme. Sì, grazie. Dove posso metterlo? Lascialo pure lì. Dove? Per terra. Poi ci penso io dopo. Cos'è successo? Come? Che ti hanno fatta? Sei pieno di lividi. Viene qualcuno? Sì. Quanto ti fai dare? Abbastanza. Devi stare attenta. Sì. Non ti reggi in piedi. Va tutto bene. Da dove vengono? Da qui intorno. Stanno drenando il fiume. Vogliono costruirci un ponte. Mordono, eh? Da quando te ne sei andato si sentono molto più tranquilli, molto più di prima. E fanno tutto quello che si sentono di fare. A me va bene? Mi danno un sacco di soldi! Ci vuole un po' di tempo però, perché le ferite spesso si aprono, sanguinano di nuovo. Loro si lamentano un po', mi vorrebbero sempre come nuova. Però poi alla fine mi guardano, scuotono la testa e fanno tutto quello che devono fare. Sei venuto con il furgone? Sì. Vuoi venire con me? Dove? Ho trovato un posto dove possiamo stare. Dall'altra parte del fiume. Non è grande come qui, ma c'è abbastanza spazio. Anche per te. Potresti... Ci sono un sacco di cose da fare. Adesso. Non ci sono più tante persone come prima.